che è stato fatto e che vedo apprezzato da numerosi presenti, tra cui anche molti amici storici che vedo qua presenti in sala. Dunque, Lorenzo Baratter, che è appena trentenne, ha realizzato questo libro che è sicuramente un successo editoriale, ma diciamo anche un successo dal punto di vista storiografico. E cerco un po' di contestualizzare questo suo sforzo che lui ha effettuato. Ecco, l'Alto Adige-Südtirol e il Trentino, assieme a altre regioni di confine, come l'area adriatica nord-orientale, l'Alsazia o la Slesia, sono un punto cruciale della storia europea. Di questo spesso non ci rendiamo conto. Nello sviluppo storico di questi territori si riflettono le fratture del nazionalismo nel XIX e XX secolo, le lacerazioni delle guerre mondiali e la duplice esperienza di fascismo, nazionalismo e, per quanto riguarda Trieste, anche la regione triestina, anche del comunismo, ma anche il progresso coronato da successi del dopoguerra a partire dal 1945. Dal punto di vista culturale, in Südtirol Alto Adige si registrano frequenti tensioni tuttora tra l'area linguistica tedesca e italiana. Siamo reduci da una campagna elettorale anche in questo senso, e il Südtirol Alto Adige, come il confinante trentino, è una zona direi anche sismica della politica continentale, dalle cui scosse e faglie tettoniche si può apprendere molto in merito alla situazione generale dell'area europea centrale. Nonostante dunque le prospettive ad ampio raggio in cui vengono collocate le province di confine, la storiografia sul Südtirol Alto Adige e sull'area italo-austriaca è ripetutamente offuscata da idee errate e da punti di vista distorti dalla realtà a causa dei persistenti rigurgiti nazionalistici. Le esposizioni avvedute e anche circospette della complicata storia della nostra terra si possono contare su le dita di un due mani. Si fa perciò fatica a rilevare o constatare una conoscenza più ampia anche dei soli eventi fondamentali. Se si facesse un'intervista ad alcuni alunni italiani o austriaci sull'Alto Adige e sulla sua importanza, e se si chiedesse per esempio quando la provincia autonoma di Bolzano è sotto l'Italia e per quale ragione sia stata inserita nello Stato italiano, si otterrebbero delle risposte sbalorditive, che denotano informazioni lacunose e spesso anche totale disinteresse. È perciò un motivo di gioia, anche se un giovane storico come Lorenzo Baratter, con un impegno scevro di pregiudizi, si è accinto ad affrontare un'ampia panoramica della regione di confine, convinto che una nuova esposizione complessiva possa scaturire soltanto da uno spassionato rilevamento dei fatti fondamentali e dalla conoscenza di differenziati punti di vista. Le Dolomiti del Terzo Reich, un titolo anche che trovo molto felice, che penso abbia anche contribuito notevolmente al successo dell'opera. Diciamo, il volume tratta il periodo centrale soprattutto degli anni dal 43 al 45, come è già stato detto, il movimentato spartiacque tra l'ultima attiva presa di potere del regime nazista e la fine della guerra nella zona operazione Prealpi. Praticamente tra quell'area grigia tra il Terzo Reich e Repubblica Fascista di Salò. Il libro percorre l'agonia omicida dei due fascismi che alle popolazioni delle province di Bolzano, di Trento e di Belluno hanno imposto un sovraccarico di sofferenze. Numerose furono le persone a dibattersi nel dilemma se, di fronte alla pressione crescente del regime militare, alle repressioni della polizia, dovessero adeguarsi ed attendere oppure impegnarsi in un'aperta resistenza. Di fronte a un presente caotico e a un futuro incerto, fra opprimenti difficoltà economiche e spesso grave indigenza personale, le popolazioni della zona delle operazioni dovettero valicare una vorticosa, rapida storica senza sapere se riusciranno a superare con fortuna l'impetuoso torrente della storia o se si dovevano soccombere. Lorenzo Baratt conosce la dinamica dei 20 mesi sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dall'8 settembre ai giorni di Caserta del 1945, grazie alle intense esperienze di ricercatore che si sono approfondite sempre più e continuamente si sono raffinate, dovrei anche dire, per i suoi metodici approcci alla materia. Nel suo libro Baratt segue la felice intuizione di non focalizzare la propria attenzione esclusivamente sui drammatici eventi della fine del conflitto mondiale. Certo, la tentazione di privilegiare il tenebroso labirinto degli ultimi eventi bellici per sviluppare una narrazione ad effetto sarebbe stata grande. Il film che conoscete, Der Untergang, Tramonto, di Bernd Eichinger, con la rappresentazione delle ultime fasi del conflitto mondiale nel bunker di Hitler a Berlino, avrebbe offerto un esempio di come un periodo di pochi giorni si possa tradursi in una trama carica di tensioni. Ma la storiografia non ha soltanto il compito di fornire un copione scenografico di forte presa sullo spettatore, deve piuttosto assolvere al compito di spalancare delle finestre sulla storia contemporanea spaziando su ampie panoramiche. E Lorenzo Baratt prende sul serio il compito genuino di uno storico, cioè quello di distendere le ali della storia, di aprirli largamente. E l'autore espone con dovizia di dettagli lunghi avvicendamenti nelle aree di confine tra Ala e Brennero, la posizione di partenza anche del Tirolo, territorio della corona austriaca, alle soglie del XX secolo. E Baratt, nella cui biografia anche familiare è registrata la storia della terra di confine, ha certamente recepito anche a livello istintivo che all'inizio del XXI secolo stanno sempre più acquistando importanza lo sguardo retrospettivo e il riferimento a ritroso della monarchia asburgica e ai suoi territori della corona. Il libro dunque tratta questo periodo, momenti finali della monarchia, la Grande Guerra, come abbiamo sentito, e si ferma con particolare attenzione sulle opzioni questo momento traumatico della storia sudtirolese, della storia locale. E poi passa l'8 settembre e l'occupazione germanica che acuirono il disorientamento di tutti i gruppi linguistici sul territorio. In Sudtirolo, come sappiamo, le truppe germaniche furono accolte con entusiasmo e salutate come segni precursori della definitiva liberazione dall'Italia. E l'unione delle tre province di Bolzano, Trento e Belluno, nella zona Operazione Prealpi, sembrò essere una tappa intermedia verso un Anschluss, verso un'annessione, un ritorno a situazioni di, chiamiamoli così dal punto di vista sudtirolese, normalità, per cui i sudtirolesi si sentirono nuovamente padroni in casa propria e in grado di riaffermare e sviluppare la loro identità. A questo periodo è dedicata la parte principale del libro di Lorenzo Baratta. Qui, grazie ad una serie di capitoli articolati con cura e sensibilità da drammaturgo, l'autore riesce a conseguire una prestazione del tutto particolare. Collega le stratificazioni della storia europea e nazionale dell'Italia con gli eventi bellici e la politica d'occupazione in Alto Adige e in Trentino. Al di là di questa panoramica, Baratta zooma, quasi in modo filmistico, sul piano delle biografie, delle piccole biografie e destini di singole persone e sulla scorta della loro sorte avventurosa mette in rilievo le contraddizioni e le presunzioni di quegli anni pregni di eventi. La zona operazione dunque era una zona grigia in cui si trovavano a stretto contatto la brutalità, ma anche le contraddizioni della politica di occupazione nazista. Infatti il commissario supremo, titolo roboante, Franz Hofer, che vedete anche sulla copertina, signore del distretto Tirol Vorarlberg e delle tre province italiane, sottostava al diretto comando del Führer, ma ben presto cercò di ritagliarsi un proprio spazio e di connotare il territorio d'occupazione, soprattutto di lingua tedesca, con una nuova impronta regionale. Perciò Hofer, nonostante la crescente pressione della guerra, si sforzò di fare del territorio occupato una specie di Grande Tirolo, con un'identità che, pur areligiosa, e tinta di nazismo e razzismo, sottolineava però le tradizioni della terra fra i monti, con un'orgogliosa popolazione montanara e dalla forte economia autarchica. Il tentativo di Hofer comunque rimase frammentario perché l'enorme pressione e l'acuirsi degli eventi bellici impedirono una sistematica politica di occupazione. Quando a metà del 1944 le catastrofi sul fronte orientale e lo sbarco in Normandia degli americani diedero l'avvio all'agonia del Terzo Reich, le tre province furono sottoposte alle macchinazioni di sfruttamento del Reich, giunto ormai al proprio stadio finale. E la Repubblica Fascista di Salò, invece, nella zona d'operazione rimase senza alcun influsso, la sovranità italiana sul territorio esisteva solo di nome e gli italiani presenti nell'Alto Adige con sgomento s'accorsero di essere indifesi perché ora furono loro a ritrovarsi nella situazione paradossale di una minoranza, come anche Carlo Romeo ha sempre ben accentuato. L'amministrazione tedesca e l'autorità militare, come nelle province di Trento e di Belluno, ne rispettava a malapena diritti, mentre molti sudtirolesi, dalla loro parte, facevano intendere agli italiani che ora le pagine della storia si stavano voltando a proprio favore. A queste condizioni, gli italiani della provincia di Bolzano reagirono costituendo in Trentino, ma soprattutto a Belluno, delle teste di ponte di una resistenza armata contro gli occupanti. ma anche nella provincia di Bolzano, andarono sempre aumentando i sudtirolesi che si distanziavano dal nuovo regime. L'insensato supremo sacrificio di molti giovani soldati mandati allo sbaraglio sul fronte orientale, le ripetute aggressioni naziste contro la Chiesa, il disprezzo dei diritti umani elementari smorzarono sempre più l'entusiasmo iniziale che era ancora in atto nel settembre del 43. Certo, una minoranza rimase caparbiamente arroccata alla convinzione e alla speranza che ancora negli ultimi mesi di guerra potesse verificarsi una svolta e credeva fanaticamente nella vittoria finale. Ma la maggioranza dei sudtirolesi lasciò cadere questa illusione e si distanziò dalla furia bellica nazista per rifugiarsi in una quotidianità sempre più difficoltosa. Uno dei grandi pregi del libro è quello di aver fatto riferimento al consenso e alla collaborazione con gli occupanti, ma anche di aver evidenziato le molteplici forme di distacco interiore e di aperto dissenso con cui un numero crescente di sudtirolesi si contrappose al dominio nazista. Baratto documenta che il Polizeiregiment Bozen della SS Polizeiregiment Bozen attaccato in via Rasella era costituito solo in minima parte da nazisti convinti, vi facevano piuttosto parte degli uomini in età avanzata inquadrati nei servizi di polizia che servivano per lo più senza entusiasmo e che alla fine si rifiutarono di prendere parte all'eccidio delle fosse ardeatine. L'autore segnala anche come soprattutto nel diffuso ambito della Chiesa si dilatò un deciso rifiuto del regime e come alcuni sudtirolesi seppero affrontare la morte per la loro fede. Questi capitoli finali del libro sono brani didattici anche di una differenziata considerazione storica in cui l'autore espone i variegati comportamenti degli uomini, rimanda al loro ruolo di attori e di vittime del regime e rende palpabile la paradossale convivenza di approvazione, di cauta attesa e di netto rifiuto. Si coglie nel libro l'amore di Baratter per queste regioni di confine. Lui tratta l'Alto Adige, il Südtirol, il Trentino e il Bellunese. Si nota la sua inclinazione anche per una duplice patria, il Trentino e il Sudtirolo, la sua capacità di enuclearne con grande lucidità le realtà storiche più complesse. Anche assistito dalla cura editoriale di Murcia e di Maurizio Pagliano. E questa sua propensione, diciamo, questa sua simpatia anche per questo territorio, per il Trentino anche, non ha reso cieco il giovane storico, ma gli ha aperto gli occhi e, come dicevo prima, disteso le ali alle sue attitudini conoscitive e anche mediatiche. Il suo libro, e questo mi sembra un'essenza molto importante, ci fa capire che l'Europa può diventare una realtà soltanto se i suoi cittadini imparano a vedere non soltanto coi propri occhi, ma anche con quelli del vicino. È una grande fortuna quella di chi, vivendo in un crocevia di lingue e culture diverse, può non solo imparare come si erigono, come si costruiscono e fortificano i confini, ma anche come lì si supera e lì si annulla. E questo è un grosso merito di questo libro. Grazie.